Domenica. È domenica. La domenica. Che uno si crede che la domenica invece va a finire, che la domenica uno si fa un culo così. Vero, vero. Un po' perché gli salta gli orari. Cioè, che svegliar si sveglia uguale. Invece potrebbe rimaner lì, nel letto. Insomma, quella cosa che ricorda un letto per il fatto che è tipo rettangolo con delle stoffe buttate lì a casaccio. Che l'ultima volta che ricordo un letto, che fosse davvero un letto, era quello di nonna Beatrice. Sì, nonna Beatrice, perché lei sul letto mica ci dormiva, no, lo preparava, ci stendeva sopra le lenzuola pulite e la coperta all'uncinetto bianca e lilla. E poi andava a dormire in poltrona. Per non crear disordine. Che con questa storia del lilla quasi ci diventavo matto. Sì, perché già da piccolo i colori ti fanno tutto un pastone nel cervello. Cioè, capire uno capisce. C'ha quelle due tre certezze, ecco. Verde erba, giallo sole, azzurro cielo. Un cromatismo primordiale. Insomma, ci siamo capiti. A me quel colore lì mi dava un pochino sui nervi. Mi faceva l'effetto tipo rosso al toro. Che si è fissato con quel colore lì e lo fa incazzare. Ma i gusti sono gusti. Mi faceva l'effetto toro. Sarà che da piccolo nella coperta all'uncinetto c'ero rimasto impigliato tipo tonno. Insomma, ci siamo capiti, a me il lilla mi dava un pochino sui nervi. Forse sì, perché già da piccolo i colori ti fanno tutto un pastone nel cervello. Proprio perché. Ma tutto un pastone nel cervello che proprio non si capiva. Azzurro cielo, giallo sole, un cromatismo primordiale. Ecco, insomma, ma da fuori non si capiva che tutta questa confusione era legata al lilla, ecco. E tutte le volte era un chiedere: ma che colore è? E tutte le volte la nonna rispondeva: lilla! Io non credo che sia un fatto personale, ma se a un bambino gli dici lilla, lui è portato a guardare verso due direzioni opposte, al massimo più vicino o più lontano. Ma non è che ci associ un colore, infatti io avevo capito che quel colore lì non era proprio un colore, ma era tipo un rimando. Una metafora di altri mondi, ecco. Il fatto era che camera di nonna Beatrice era 3x4 e io finivo sempre per guardare il comò e l'appendiabiti. Il comò era marrone e filli, ma gli abiti cambiavano e allora nella mia testa il lilla diventava una sorta di mostro cangiante. Ah, cangiante lo dico ora, ma ci sono arrivato solo a 30 anni. Insomma, da fuori non si capiva che tutta questa confusione era legata all'illà. Insomma, non si capiva proprio, che tutta questa confusione era legata all'illà. E allora tutte le volte si vedeva un bambino che veniva colto da spasmi muscolari. Lilla, lilla, lilla. E così mi portarono dal dottore, il mio primo dottore, il dottore della mutua, che per un bisticcio linguistico della nonna, per via che era di Pordenone, suonava un po' come il dottore della muta. Primo trauma. Sì, ebbi paura perché io di muti non ne conoscevo. Anche se però tutti sembravano ad avere un certo timore, quasi un rispetto per questo dottore, anche se a me sfuggiva la ragione per cui io, che ero un bambino a cui piaceva parlare, dovevo andare da un dottore per muti. C'era un trucco È chiaro che c'era un trucco. Il collegio era l'unica spiegazione possibile, perché lì ci vanno i bambini cattivi, quelli strani, insomma un posto tipo carcere, ma dove ci trovi di tutto, ecco, di tutto ma in piccolo. Ma cosa avevo fatto? Sì, va bene, da piccolo avevo sparato al gatto dei vicini, ma era solo un fucile a tappi. La paura se l'ha presa tutta la padrona, che pensava un fucile vero. Il gatto, figuriamoci, non se n'era neanche accorto. Anzi, gli era anche piaciuto il tappo, che si era messo a leccarlo, sapeva divino. C'era qualcosa, mi dovevo sforzare. C'era qualcosa che avevo fatto e che nella mia scala di valori aveva un peso diverso rispetto alla scala dei valori dei grandi. Per esempio, per me indossare il costume da bagno al mare era una fesseria. Sì, perché dovevo mettere una cosa asciutta per poi bagnarla e rimettere una cosa asciutta. Mette e toglie da idioti. E se non mettevo questo benedetto costume, tutti lì a urlare «Vergogna! Vergogna!» Forse era il costume. Sì, era certo il costume. Ma che c'entrava il costume da bagno con la muta? Va bene, alla fine mi convinci, anche se non era un ragionamento del tutto logico, doveva essere proprio il costume da bagno ad avere una qualche relazione delittuosa con la muta. Così mi preparai tutta una strategia nella mia testa, tipo 3-7. Bastava solo che aspettassi il momento in cui il dottore ti chiede «Come ti senti?». Tanto un dottore come ti senti deve chiedertelo per forza, e altrimenti che dottore è? Così mi prepararono tutto, mi misero il vestito pulito, stirato, e mi portarono da questo dottore. Dottor Baldi Ugo, dottor Baldi Ugo, entrai nel suo studio con il cuore in gola. No, non ce la faranno, no, in collegio, no, piuttosto mi butto giù dalla finestra. Che poi era una frase fatta, per via che il dottore stava al pian terreno. Insomma, una volta entrati, ci sedemmo davanti alla scrivania, e mamma e il dottore cominciarono a parlare a bassa voce, e mamma, si vedeva che parlava così piano perché si vergognava, continuava a schiarirsi la voce, perché lei non c'era abituata a parlare in quel modo per così tanto tempo. Diciamo pure che mamma c'aveva una voce che papà glielo diceva sempre: «Ma dai, smettila di gridare!». Beh, così a un certo punto il dottore si mette gli occhiali, si gira dalla mia parte, mi guarda, sorride e mi dice: «Come ti senti?». Ecco, l'ordine, il comando che aspettavo. Mi alzai di scatto in piedi. «Bene, molto bene, signor dottore! Anche se non si porta a portare il costume da bagno quando è bagnato, anche perché soffro un po' il freddo, anche se capisco che non portarlo è una vergogna! Grazie, dottore! Grazie!» Quando uscimmo dallo studio del dottore, mamma mi stringeva il braccio, ma me lo stringeva così forte che me lo sentivo bruciare tutto. Mio padre, a casa, mi diede solo una sberla, perché nonna Beatrice prese le mie difese e, pesando 80 chili ed essendo la padrona di casa, nessuno poteva dirle niente. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine, piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella bella la città, come la domenica non è mica un giorno come gli altri, perché la domenica finisce a mezzogiorno. Anzi, a me è sempre sembrato che finisse nel momento in cui mi sedevo a tavola per mangiare. Ecco, da quel momento lì in poi la domenica per me era tutta una cosa molle che ti si appiccicava addosso. La domenica mi ha sempre fatto un effetto tipo la DC, che fino al nome si capiva cos'era. Poi dopo invece è diventata un'altra cosa, una specie di voragine dove c'entrava dentro di tutto. Ecco, per me la domenica era come la DC. Iniziavi con una specie di digiuno che ti preparava l'ostia, che ti preparava la colazione, che ti preparava il pranzo. Che poi, questo pranzo non è che era tanto diverso dagli altri, è solo che per apparecchiare e sparecchiare ci voleva più tempo. Insomma, andava a finire che mangiavi la solita polenta, però te la portavano sul vassoio e allora sembrava più importante. Ecco, l'unica vera differenza era che ogni tanto venivano a trovarci degli ospiti, o lo zio dalla Francia, che anche quella volta lì mi ricordo che ci fu una confusione. Sì, perché andò a finire che nonna Beatrice aveva capito che lo zio, che poi era suo nipote, era scappato dall'Italia perché si era innamorato di una certa Franca. Già io nella testa c'avevo la confusione del digiuno e della colazione, pertanto non capivo perché nonna Beatrice si era arrabbiata con lo zio, che poi era suo nipote, perché era scappato con una che faceva la bella vita. A parte il fatto che non si chiamava Franca. Zitto te che sei troppo piccolo per capire. Ecco, così mi toccò stare zitto. E andò a finire che io e nonna Beatrice sembravamo due idioti seduti a una tavola senza dire una parola. Lo zio invece continuò a parlare per tutto il tempo. Un po' perché mio padre era un tipo taciturno. Quindi era rimasto l'unico a parlare, un po' perché il viaggio più lontano che abbiamo fatto noi è quando mio padre ci portò tutti in gita in periferia. Sì, sì, proprio così, in periferia. Salimmo tutti sul tram e scendemmo solo quando il guidatore disse capolinea. Ci vollero quasi 20 minuti prima di arrivare in periferia. Quando scendemmo si vedevano gli ultimi blocchi di case che stavano ancora per finire di costruire. Mio padre si gira verso le città e fa: «Uè, viviamo proprio in una città grande!» Lo zio, invece, che era stato a Marsiglia, che oltre a essere un inno rivoluzionario era anche un porto, ci spiegava che lì gli operai hanno il petto gonfio. Io questa cosa dell'operaio col petto gonfio me la sono portata dentro per tutta la vita. Per un po' ho pensato che si trattasse di un fatto di appartenenza, di orgoglio, di essere fieri. Invece poi ho capito che con il petto gonfio la schiena sta dritta. E questa cosa del lavoratore con la schiena dritta mi è sembrata proprio bella. E allora lo zio ci spiegava che da loro in Francia, se sei un manovale, un operaio, un tranviere, non è che sei più scemo delle altre persone, cioè sei una persona che ha il reddito più basso, cioè che guadagna di meno rispetto a uno che lavora in banca, ma non è che non puoi andare al cinema, all'opera o alla commedia. Si fece un silenzio. Un operaio che parla di Verdi col delegato sindacale? A mio padre il Lambrusco gli uscì dal naso. E allora lo zio giù a spiegare che le battaglie per pochi spiccioli in più in busta paga erano finite, che se questo mondo lo devi cambiare con le idee, con i pensieri. Ma se lavori e basta, quando lo cambi il mondo? Vorrei mica stare tutta la vita a bere, mangiare, dormire, Siamo mica scimmie! Quel giorno lì lo ricordo come una tragedia. Sì, come una tragedia, perché in casa mia di libri c'erano i miei 3 di scuola, 5 in sala da pranzo, una enciclopedia illustrata, che poi è risultata ad essere cartoline ciclostilate in carta gialla, la mamma l'avevano fregata con un pagamento a rate. Un romanzo d'amore che però mio padre l'aveva usato per zeppare il comò della nonna. Praticamente una famiglia di macachi. Vestito a me. Ci sono poche occasioni che uno si veste bene. Le feste, la domenica, quando si è innamorati, che poi è come se fosse una festa. Maria lavorava nel mio stesso reparto, verniciatura. Ci siamo conosciuti nel beige. Sembra poetico. Ma è solo che a un certo punto la mia pistola a spruzzo esplose e il tubo della vernice andò avanti a spruzzare che sembrava un'anguilla. Un disastro! Oddio, un disastro! La parola disastro la usò il caporeparto, che era un poveraccio fascista. No, come si usa dire ora, lui era proprio un fascista. Uno della decima MAS, ormai prossimo alla pensione. Praticamente la peggior fine che si possa immaginare per un ardito. In fila alle poste a ritirare la pensione. Insomma, Maria rideva che non la smetteva più, mentre si stava lì a pulirci con l'acquaragia, di cui se ne faceva un gran uso, anche perché ci dicevano che l'acquaragia era l'unica cosa per togliere le macchie di vernice. E poi non faceva nemmeno male, altrimenti non ci sarebbe stata dentro la parola acqua. Le idiozie che ho sentito in vita mia. Insomma, Maria rideva che non la smetteva più. Ci sono di quelle donne che non sono belle, però quando ridono è come se ti si spogliassero davanti. Cioè, è come se addosso c'han dei vestiti che sono un disastro. Ma sopra, ma sotto c'han degli abiti di alta moda. Ecco la Maria, che quasi ste lì, la confondi con le mattonelle della cucina e poi tutto di un tratto ti scoppia a ridere che tintinna anche il lampadario. Perché Maria rideva e rideva, oddio rideva, mica sempre rideva. Perché Maria leggeva, e quando leggeva Maria si faceva serissima, oddio serissima, e che faceva tutte delle facce strane, e come se nei libri ci cascasse dentro. E io all'inizio questa cosa qui mica l'avevo capita, no, pensavo che lei ci avesse le sue cose. Tanto si sa, nonostante che c'è la parità, insomma, sono cose che un uomo non le capisce, e allora tanto vale... è meglio star zitti, è meglio non parlarne. E allora io, zitto zitto, ma senza dirle niente, le portavo la camomilla. E lei tutte le volte: ma mi vuoi far dormire? Io questa cosa del dormire la prendevo come invito a fare l'amore. Allora cominciavo a toccarle i capelli, la baciavo sul collo. E lei... sempre la solita storia. Ma dai, non lo vedi che sto leggendo? Ecco, a me questo sembrava un atteggiamento contraddittorio, perché se una persona ha i crampi allo stomaco, la camomilla fa bene. Se invece sta lì, nel letto, con la luce accesa, e vuol star sveglia, senza dire una parola, è chiaro che c'ha voglia di far l'amore. Poi invece mi spiegò che c'era anche la terza via, che poi era la possibilità che a una persona gli andasse di leggere un libro in santa pace. Così, una domenica, tipo oggi, sì, una domenica di mattina, che infatti il caffè l'avevo fatto io, lei entra in cucina, prende la sua tazza di caffè e fa: cos'è sta storia che tu non leggi libri? Ti fanno allergia? Ma no, che c'entra? È che la sera mi si incrociano gli occhi, mi viene da confondere le righe, insomma quando arrivo in fondo alla pagina non ci capisco niente. Ma mi prendi per scema? Ecco, quando nelle discussioni ci metteva sempre quella frase lì, andava a finire che si litigava sempre. Perché secondo te a me gli occhi non si possono incrociare della stanchezza? E perché a te si devono incrociare e a me no, che lavoriamo nello stesso reparto? E sarà che sei un più delicato? E sarà che sei una bestia? E sarà che mio padre non faceva il tipografo? E sarà che invece di andare al bar, a giocare a carte, potresti comprarti un bel libro e iniziare a leggere? E sarà che mi diverto di più? E sarà che se resti così ignorante io smetto di dartela? Ecco, questo era un ricatto, una cosa che mi mandava in bestia, sì, perché significava mischiare degli affetti con delle robe pratiche, con delle robe che non c'entrano niente con l'amore. Poi a carte ci ho sempre giocato e mi sono sempre divertito, e le carte con l'amore non c'entrano niente, a parte i cuori, ma quello è un modo di dire, insomma. Oh, e poi questa cosa di non fare l'amore perché uno non legge libri non sta proprio né in cielo né in terra, ecco. Ma dai, che l'hai buttata lì tanto per ridere? No, Maria non rideva affatto. Così prende una agenda di quelle piccole, blu, brutte, di plastica, che ti regalano in fabbrica a Natale, che insieme al panettone, allo spumante e al calendario erano il segno che eravamo proprio dei disgraziati. Così prende sta agenda e fa: bene, da domani inizi a leggere e parti da là e giù, giù, giù, giù in fondo fino alla Z. Scrittori, poeti, musicisti, ogni giorno mi devi raccontare qualcosa di qualcuno, di tutti coloro che hanno fatto la storia di questo paese. Puttana Eva! Cos'è che hai detto? No, ho detto Adamo. Adamo, padre di Caino, di Abele, marito di Eva. Sbagliato! Marito un corno e la prima coppia di fatto di figli nati da una libera unione. Se proprio ci tieni al sacro, parti di lì e da domani inizi a leggerti la Genesi. Eccola lì, la mia rivoluzione culturale iniziava dalla religione, mi toccava partire dalla religione, e prima di arrivare a Marx c'aveva ancora davanti 10 lettere. Però quella volta lì abbiamo fatto l'amore tutta la notte. Allora Dio, nel 7° giorno, portò a termine il suo lavoro che aveva fatto, e cessò nel 7° giorno da ogni suo lavoro. Che la prima volta che l'ho letto ci ho provato un gusto, ma un gusto, sì, perché sono di quelle cose che te lo senti ripetere fin da quando sei bambino. Ma dai, riposati, che anche Dio si è riposato il 7° giorno. Insomma, lo senti dire da tutti, ma non è che capisci chi l'ha detto per primo. Però sapere che qualcuno l'aveva scritto ti fa sentire diverso, ecco. Bibbia, Genesi, 2-2. Che poi, a leggerlo bene, non è che c'era scritto che si riposò. No, che è ben diverso. C'era scritto che cessava. Cioè, non è che c'era scritto che il giorno dopo, cioè che il lunedì, avrebbe ricominciato da capo. No, c'era scritto che cessava, punto e basta. E questa sì che era un argomento da portare in fabbrica, in assemblea, quando si discuteva di doppi turni, riduzione degli orari di lavoro. C'era da saltar su e dirglielo. Che era proprio la concezione del lavoro che non poggiava su basi teoriche e tantomeno teologiche, ma era di puro sfruttamento e basta, oh, anche se me ne immaginavo già gli altri. Ma Dio mica mangiava, glielo dissi anche alla Maria, che però non alzò nemmeno lo sguardo dal libro che leggeva. È inutile che tu cerchi delle scorciatoie. Lo so che vuoi arrivare alla L. Alla L? Lenin! Giuro che non ci avevo pensato, non ci avevo pensato! Era solo una riflessione. È che questa storia del mettermi a leggere mi aveva messo in testa tutta una cosa strana, che anche in fabbrica non ero più lo stesso. Cioè, facevo le stesse cose, ma poi mi partiva un pensiero. E allora seguivo il filo di quel pensiero. Il primo che se ne accorse fu il Righetti. Righetti, lo vedevo che a mensa mi guardava con l'aria di uno che ti fissa e fa: «Uè, questo ce lo siamo giocati!» Così un giorno mi blocca e mi fa: «Uè, cos'è che c'hai?» «Ma no, è che c'è tutta una cosa nella testa sul riposo settimanale, sai, col fatto che mi sono messo a leggere, insomma, ne parlavo anche con Maria, insomma, mi è scappata un puttana Eva, e allora col fatto che so che lei è femminista, non volevo fare tutto un discorso sul maschilismo operaio, insomma, per farla contenta mi sono, l'ho buttata su Adamo e poi mi sono messo a leggere la Bibbia». A tavola si fece un silenzio che tutti mi guardavano tipo UFO. Mi diventi mica un prete? Ma no, che c'entra? È che dovevo iniziare a leggere. Insomma, da dove inizi, allora tanto vale partir dalla Genesi. Allora tanto vale partir dall'inizio. E gli egiziani allora? E vagliela spiegare te. Che l'elenco me lo dovevo fare in ordine alfabetico, e se proprio potevo scegliere, alla E potevo metterci Engels. Dal fondo della tavola, Mohammed mi fa: «Dio mai riposato!» Bibbia Genesi 2:2, se proprio vogliamo essere precisi. «Il tuo Dio, Allah, non si assopisce, non si stanca, non si riposa e non dorme, quindi niente riposo». Vabbè, la chiusi lì, altrimenti sembrava che volevo fare tutta una discussione sulla religione. Invece, era chiaro che nella mia testa l'idea era quella di un lavoro, di un sacro, santo riposo, ecco, unita a quella di un lavoro come creazione, opera. Che poi nel significato operaio quella parola lì c'era già. Problema era che il lavoro era diventato un'altra cosa, era diventato prodotto, una cosa che facevi così senza un senso per nessuno. Cioè, non è che ti capitava in mano un pezzo e dicevi: «Cristo, guardate il Righetti come ha saldato questo pezzo! Il Righetti è un genio! Guardate come ha saldato questo pezzo il Righetti! Il Righetti è un genio!» No, guardavi un pezzo che ti era appena finito tra le mani, che era uguale a un altro pezzo, spiccicato, identico a un altro pezzo. E l'unica cosa che ti veniva chiesta, che di questi pezzi, di questi benedetti pezzi, dovevi solo farne di più, di più, di più, di più, di più, di più. Il Righetti è morto nel turno del sabato. Non ci ha dato nemmeno il gusto di uno sciopero. Era lì a fare il suo di più, il suo inutile di più. E a un certo punto una macchina l'ha tranciata in due. Al funerale c'era tutto il suo reparto, la famiglia, gli amici, la moglie, un giornalista di una cronaca che doveva scrivere un pezzo sulle morti bianche degli operai. Morte un bianca è un cazzo, che il Righetti era in una pozza di sangue, che la bara l'hanno dovuta chiudere per non farla vedere la moglie, tanto non c'era niente da vedere, insomma era meglio che te lo ricordavi come te lo ricordavi. E poi basta sta storia dell'operaio che muore. Un nome e un cognome ce l'abbiamo anche noi, non siamo mica api operaie. La macchina fu messa sotto sequestro per una settimana. A me veniva da ridere a vedere quell'enorme bestione che l'avevano legato col nastro bianco e rosso, come se fosse colpa sua, della macchina intendo, la macchina assassina. Roba da scemi, sì, proprio roba da scemi. Ci stavamo prendendo tutti per scemi, a noi dentro e a quelli fuori, perché il problema non era più politico. No, non era di iperproduzione, sfruttamento del lavoro, di alienazione del lavoro. No, quelle erano cose vecchie, nostalgie, fatti superati. La battaglia adesso era sulle normative in tema di sicurezza. Così andava a finire che a mensa, invece di incazzarti che lavoravi come uno schiavo di Tutankhamo, discutevi di quanti milligrammi di veleno puoi respirare al giorno secondo la Comunità Europea. La distanza consigliata e opportuna fra la mano e la lama, e il giusto corretto rapporto fra sostanza detonante e superficie prima di fare esplodere un lavoratore. Indice, peso, volume sollevabile prima di trasformare un operaio in uno storpio. Così, al giorno dopo ogni incidente, il capo reparto ti faceva vedere tutto da capo e te lo spiegava come se fosse, come tu fossi un bambino deficiente, perché oltre ai coglioni che ti giravano come una giostra, lui te lo spiegava come se uno fosse un bambino cretino. Ecco, ti chiamava e ti diceva: vieni qui, vedi? Se l'ugello della pistola non viene adeguatamente liberato da eventuali corpi ostruenti, si può verificare una otturazione con aumento della pressione e una fuoriuscita incontrollata della sostanza verniciante. E te, ce l'hai presente una mano che è sufficientemente rinchiusa in se stessa, spinta da un corretto rapporto della massa muscolare, può arrivarti dritta in piena faccia e provocare la fuoriuscita degli incisivi? Ah, io ti ho soltanto dato l'informazione sulle normative di sicurezza. Se ti succede qualcosa, non andare a dire in giro che non ti avevo dato le giuste indicazioni. E te non andare a dire in giro che non ti avevo dato le giuste indicazioni per andare a fanculo! C'avevo una rabbia dentro, ma una rabbia dentro, che tutte le volte che passavo davanti a quella macchina mi saliva come in faccia, mi saliva come una vampata, perché tanto al Righetti non ci pensava più nessuno. E anche l'assemblea era finita, che tutti discutevano di quanto la prevenzione fatta nelle fabbriche tedesche fosse la più lunga, più efficiente di quella fatta qui da noi. Alighieri Dante, Amendola Giorgio, Ardigò Roberto, andava avanti così. Ci avevo trovato anche dei nessi. Dante cattolico, ma con aperture a sinistra. Amendola era Mendola, Ardigò un anarchico sperimentale. Insomma, anche con Maria andava avanti, a parte le solite incomprensioni di carattere intellettuale, ecco. Ma lo sai te che l'aretino in vita sua ha speso come 1 milione di franchi e faceva lo scrittore? E lo sai te che la lavatrice si è rotta di nuovo? Beh, vabbè, insomma, anche in fabbrica avevo trovato il mio metodo. Sì, perché quei bei colori degli anni 70 non c'erano più. Quando era tutto un cambiar colore, insomma, ti sembrava di stare in mezzo a un campo fiorito e la testa te la distraevi in qualche modo. Adesso invece erano tutte variazioni intorno all'alluminio. Una miseria a valor cromatico. Una miseria! E allora cercavo di ripassare così quelle poesie che mi ricordavo a memoria, cercando di individuare l'autore e l'anno di composizione. Alluminio splendente, alluminio riflettente, alluminio lucida, alluminio leggera, alluminio rosso. Oddio, rosso. Non proprio rosso, per via che una volta lo macchiai di rosso. Non proprio macchiato, che il sangue al limite macchia i vestiti, ma non la vernice. Due macchie che se era di un altro colore, uno non se ne sarebbe neanche accorto, ma sull'alluminio si vedevano bene. E allora mi portarono in infermeria, oddio, in infermeria. Noi la chiamavamo la polifunzionale per far capire che era un casino, perché dentro c'entrava di tutto. Dalla donna delle pulizie con secchi e scopettoni, a stanza da fumo, a stanza da riposo. Per via che c'era un lettino e prima di crollare era meglio stendersi 5 minuti. Insomma, mi portano lì ad aspettare questo dottore, che quasi mi cadde addosso per via che c'erano degli scopettoni messi male. Secondo trauma. Non mi chiese nemmeno come ti senti, niente. Prese lo stetoscopio e poi cominciò a toccare sotto il collo, a tastare sotto il collo. Si sedette a quella che negli anni 60 doveva sembrare una scrivania. Cominciò a scrivere. E poi disse: senta, non dovrebbe essere niente, però comunque è meglio stare tranquilli, con queste può andare a fare delle analisi e i risultati può farli vedere al suo medico di famiglia. Malattie professionali le chiamano così, cioè ti dicano che c'hai un malaccio. Però non è che è venuto chissà da dove. No, no, è proprio professionale. E io mi ero montato anche un po' la testa, perché ho detto, cavolo, professionale, tipo professore. Insomma, quando uno si compra un bel cappotto nuovo, tipo professore professionista, ecco. Invece, poi con il tempo, capisci che sei un poveraccio col cancro e ti prende anche un po' di sconforto. Anche la Maria aveva fraintesa, anche lei pensava che ci avevo con la depressione, l'esaurimento, ecco, insomma, quello che viene ai padroni, quelli che voi chiamate manager. Poi ha capito anche lei, infatti ha smesso di prendermi in giro, perché mi diceva sempre: ma dai, smettila di darti delle arie. Così poi ha smesso di prendermi in giro e ha iniziato a piangere. Terzo trauma. Mi ha fatto anche un po' di effetto, perché io lei non l'ho mai vista piangere. E ci sono di quelle persone che lo vede che non sono tipi da piangere, e quando piangono non sai cosa fare. Stai lì, le guardi e dici, beh, poi le passa. Tanto è forte. E così io in quel momento ho pensato. Infatti lei ha smesso. E poi è iniziata la solita trafila. A lavorare non ci sono più andato. No, perché non ce la facessi. È che non volevo dare un dispiacere agli altri compagni. Tanto al reparto verniciatura non mi ci avrebbero rimesso e io bene conoscevo solo loro. Oh. E però c'avevo anche le mie soddisfazioni, perché di tempo, avendone di più per leggere, potevo anche andare avanti più speditamente. Poi, una notte di sabato, mi son sentito che girava tutto. Oddio, tutto. Quel poco che abbiamo nella stanza, però girava da far paura. E lì la Maria si è svegliata anche lei. Ed è corsa a chiamare l'ambulanza. La Maria che veniva lì e mi diceva: amore, amore, amore, amore, amore. Io non ce la facevo, non mi veniva lì a rispondergli. C'avevo una rabbia dentro. E allora ho fatto un sorriso, che però è risultata ad essere una smorfia, perché lei ha iniziato a piangere di nuovo. Allora ho pensato, vabbè, tanto è forte, poi le passa. E poi è iniziato sempre il via vai, dottori, infermieri. La Maria che veniva lì e mi diceva amore, amore, amore, ma io non ce la facevo, non mi veniva di rispondergli, c'avevo una rabbia dentro. E allora mi sono sforzato e gli ho detto: Voltaire! Lo so che in quei momenti lì non c'entra niente di parlare di filosofi, ma io volevo dirglielo che era arrivato alla V. Poi sono morto di sabato. Morte professionale. I compagni hanno fatto una gran colletta e c'è venuta fuori una bella lapide color beige. Maria ci ha fatto scrivere sopra: gli uomini sono uguali. Non la nascita, ma la virtù fa la differenza. Voltaire.